Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti in questa nuova puntata del Pioniere, il giornalino a fumetti diretto da Gianni Rodari, che oggi si confronta su un tema decisivo e non credo solo per la redazione di quel giornale a fumetti, cioè la memoria. Un tema decisivo perché la memoria non solo si perde col tempo, ma a volte si annulla anche nel presente, quando c'è l'impossibilità di raccontare le speranze, l'attività, l'idealità e la lotta dei genitori ai figli perché c'è un paese, ed è il caso del fascismo, sotto una tirannia. Questo iato di memoria viene raccolto da una serie di interviste degli allora ragazzi curato da una equipe di storici con Yuri Meda dell'Università di Macerata che ci spiega appunto le risultanze di queste registrazioni. Noi abbiamo raccolto delle testimonianze dei bambini, dei figli delle classi operaie che vivevano in famiglie impegnate attivamente nell'antifascismo clandestino. Immediatamente nel dopoguerra sarebbe stato bello capire come vivevano quegli anni, che cosa gli veniva detto, che cosa filtrava. Io ho l'impressione che filtrasse molto poco, e che il compagno di Pavese racconta molto bene questo quando dice, no, Pavese racconta che a un certo punto il personaggio di Pavese entra in fabbrica, si trova di fronte un comunista, non sa come chiamarlo. Come chiamare lui e quelli come lui, allora dato che lui si chiama Meglio, chiama tutti i comunisti a Meli, ok? Perché non aveva neanche idea di che cosa fosse un comunista, si era persa completamente la comunicazione intergenerazionale. Dunque nel dopoguerra una generazione di ragazzi che a volte nemmeno conosce l'attività dei genitori. Allora ecco che il Pioniere fonda i circoli del Pioniere in realtà territoriali, dove si prende spunto proprio dalla resistenza, e a quei ragazzi che fecero la resistenza si affida un compito importante, l'organizzazione di questi gruppi. Sulle modalità, il perché e le ambizioni di questi circoli del Pioniere interviene Marco Fincardi, storico dell'Università di Venezia. C'è un'esaltazione della partecipazione dei bambini alla guerra di resistenza, alla lotta di liberazione, e ci sono effettivamente dei momenti in cui alla guerra partigiana partecipano anche dei circuiti organizzati di pionieri. Questo tipo di inquadramento della gioventù è un tipo di inquadramento che viene proposto come modello ideale dalla sinistra italiana dopo la liberazione. Ci si arriva, prima si fondano a seconda delle regioni le associazioni dei giovani garibaldini, a Reggio Emilia ha un successo spropositato l'associazione giovani esploratori, che si modella sullo scautismo ma propone tutto un lavoro con i partigiani, con la resistenza, cercando di portare i bambini ad andare a ascoltare i racconti dei partigiani, magari nei luoghi dove sono avvenute le battaglie sull'Appennino, cose di questo genere, ecco. E non a caso saranno proprio i giovani, sia per l'organizzazione del circuito dei pionieri legato al PC, sia quello dei Falchi Rossi legato al PSI, saranno proprio i dirigenti dell'Associazione Giovani Esploratori di Reggio che verranno designati a essere i segretari poi nazionali di queste esperienze. Quindi per i pionieri Carlo Pagliarini, che ha fatto a 17 anni il partigiano, diventerà il segretario nazionale dell'API quando l'associazione viene fondata alla fine degli anni 40. A cosa deve servire un'associazione dei ragazzi quando l'Italia viene da un regime più che ventennale che ha investito enormemente sul costruire l'uomo nuovo fascista. Naturalmente, quindi, l'uomo nuovo che deve nascere dalla resistenza deve essere l'opposto della gioventù di regime. Quindi il modello della cultura che propagano l'API e l'AFRI, l'Associazione dei Falchi Rossi, è quello di una cultura alternativa, non della cultura inquadrata, non della cultura di una gioventù di Stato. Come può funzionare questa cultura alternativa, questo spiegare a dei bambini? Sono dei bambini che sono bambini a malapena scolarizzati, sono bambini che tradizionalmente appartengono a ceti sociali che già a 7-8 anni, quando va bene a 10, la scuola l'abbandoneranno. Sono bambini che per di più nascono in un dopoguerra in città disastrate, in realtà dove domina la disoccupazione. Sono sostanzialmente dei marginali. Che destino avranno questi bambini? Dovranno, spiega un giornalino come il Pioniere, spiegano le storie di Rodari, diventare i protagonisti della loro emancipazione. C'è un investimento enorme che viene proprio attraverso quella che è la redazione del Pioniere, tutte le pubblicazioni che loro editano, che non sono solo il giornalino, sono riviste per i quadri, dove si spiega come organizzare dei giochi collettivi, dove si spiega come fare uno sport che non sia sport competitivo, si spiega come organizzare in modo alternativo, non autoritario, le colonie estive. Si spiega come organizzare campeggi, come fare teatro, come riuscire anche a fare cinema, come organizzare una gita istruttiva in città, ma soprattutto si spiega come andare a conoscere le lotte sociali che fanno i propri genitori nelle campagne come nelle fabbriche. Si spiega come andare a conoscere, dicevo prima, i racconti della resistenza. Si spiega un'educazione civica dove si educa alla Costituzione. Circoli del Pioniere, fortemente proiettati e modellati sugli ideali della resistenza come cemento di memoria per costruire la nuova Italia, e questi circoli pionieri quindi erano costruiti su questa visione, come ci conferma Martelli dell'Associazione Pionieri di Bologna. Si richiamava un po' tutto questo sistema organizzativo, un po' l'organizzazione dei partigiani. Certo. Pensa che i diffusori del giornale Il Pioniere si chiamavano staffette, quindi c'era tutta una... Quindi grande importanza alla resistenza, alla lotta di liberazione e appunto alla ricostruzione di un'Italia repubblicana. I partigiani erano poi il punto di riferimento, anche i contenuti, diciamo, della lotta di liberazione. Forse non è facilissimo oggi comprendere l'importanza e anche la difficoltà di questo rapporto con le giovani generazioni del dopoguerra, perché il tempo in qualche modo rischia di far sbiadire i contorni di quell'epoca. Ma si parla di ragazzi poveri, di ragazzi ai margini delle città, di ragazzi sicuramente ai margini del benessere, come ci ricorda Carlo Zaia, segretario del Comitato Ricerche Pionieri d'Italia. Bisogna ricordarlo che è stato un periodo dove i ragazzi che provenivano da un certo ceto sociale hanno avuto uno sviluppo, sono stati al centro, hanno partecipato all'attività di questa nazione, si sono istruiti anche tramite l'Associazione Pionieri, perché l'Associazione Pionieri non era il Balilla dove tutti andavi a fare le vacanze con le escursioni, era la libera partecipazione, ognuno doveva esprimere le proprie idee. Ragazzi di 10-12 anni che non avevano neanche l'istruzione, secondo me è stato un bel passo avanti. Ma la memoria è una cosa strana che sfugge alle facili categorizzazioni. Ne fa fede un altro uomo della sinistra, un profeta e anche un cantore come Pasolini, che degli strati popolari, dei giovani proletari, aveva una concezione molto meno laica e pragmatica che non quelle che abbiamo ascoltato legate ai circoli del pioniere, ma una concezione molto più malinconica, forse mistica, apologetica di un mondo che fu e che inevitabilmente va cambiando. Le città finivano con grandi viali, circondati da case, villette o palazzoni popolari dai cari terribili colori nella campagna folta. La gente indossava vestiti rozzi e poveri. Non importava che i calzoni fossero rattoppati, bastava che fossero puliti e stirati. I ragazzi erano tenuti in disparte dagli adulti, obbedendo alla tacita regola che li voleva ignorati. Tacevano in disparte. Ma nel loro silenzio c'era un'intensità e un'umile volontà di vita. Altro non volevano che prendere il posto dei loro padri con pazienza, che finivano col costruire un mondo dentro il mondo, per chi sapesse vederlo. È vero che le donne erano ingiustamente tenute in disparte dalla vita, e non solo da giovinette, ma erano tenute in disparte, ingiustamente, anche loro, come i ragazzi e i poveri. Perché cosa aspettavano quei ragazzi un po' ruzzi, maretti e gentili, se non il momento di amare una donna? La loro attesa era lunga quanto l'adolescenza, e quando il loro momento veniva, essi erano maturi e divenivano giovani amanti o sposi con tutta la luminosa forza di una lunga castità. La naturale sensualità, che restava miracolosamente sana malgrado la repressione, faceva sì che essi fossero semplicemente pronti a ogni avventura, senza perdere neanche un poco della loro rettitudine e della loro innocenza. Sappi che negli insegnamenti che ti impartirò non c'è il minimo dubbio. Io ti sospingerò a tutte le sconsacrazioni possibili, alla mancanza di ogni rispetto per ogni sentimento istituito. Tuttavia, il fondo del mio insegnamento consisterà nel convincerti a non temere la sacralità e i sentimenti, di cui il laicismo consumistico ha privato gli uomini, trasformandoli in brutti e stupidi automi, adoratori di feticci. Chi accetta realisticamente una trasformazione che è regresso e degradazione, vuol dire che non ama chi subisce tale regresso e tale degradazione, cioè gli uomini in carne e ossa che lo circondano. Chi invece protesta con tutta la sua forza, anche sentimentale, contro il regresso e la degradazione, vuol dire che ama quegli uomini in carne ed ossa. Amore che io ho la disgrazia di sentire e che spero di comunicare a te. Erano alcune riflessioni di Pierpaolo Pasolini recitate dall'attore Tony Servillo sui ragazzi delle periferie. Certo è che al di là delle differenze sul concetto di progresso, sul concetto di benessere delle giovani generazioni proletarie, sulla loro purezza e tutte tematiche su cui ancora si discute, è evidente che comunque la resistenza e quei valori democratici sono il cemento che tengono insieme tutte le varie anime della sinistra. Ed è anche altrettanto evidente che quegli antidoti democratici sono necessari oggi, basta guardarci intorno a vedere l'orrore nel mondo che si ripresentano come nel secolo passato. È dunque sbagliato relegare troppo lontano nel tempo, storicizzare e sterilizzare pure troppo la resistenza a quella grande ribellione democratica o addirittura negarla, come fanno alcuni sedicenti pensatori dell'attualità, e invece è importante ritornare a parlare di queste cose. E lo strumento del fumetto torna a verificare come uno strumento efficacissimo per questa operazione, per dialogare con le giovani generazioni. Questo viene testimoniato anche dall'associazione Stella Alpina di Novara, che ha prodotto con i ragazzi e per i ragazzi un lavoro sulla resistenza, pannelli proprio risalendo delle tavole che negli anni 50 comparvero sul Pioniere. Ma sentiamo Beldi, rappresentante di questa associazione. Beh, noi abbiamo iniziato diversi anni fa, nel senso 5 anni fa, a proporre nelle scuole la storia d'Italia, i 3 anni di storia d'Italia attraverso proprio le pagine del Pioniere, che raccontarono praticamente questa pagina importante di storia attraverso una forma di fumetto, il fumetto di allora, che era più che altro un'illustrazione. Però abbiamo notato che ha avuto un impatto positivo, specialmente nelle scuole, perché era un modo un po' diverso per portare la storia attraverso questa mostra. Allora, il fumetto del Pioniere uscì nel 1955, nel decennale della lotta, dell'anniversario della lotta della vittoriosa lotta di liberazione, e andò avanti per 23 puntate, ma era comunque ancora più ampia la storia raccontata sul Pioniere, perché partiva proprio da 30 anni prima, quindi dal fascismo fino alla liberazione. Noi prendemmo solo la parte, diciamo, dei 2 anni, dei 20 mesi della lotta di liberazione. Comunque ebbe un rilievo notevole, perché girò in quasi tutta l'Italia del Nord, da Venezia fino a Rivoli, fino a Torino, e quindi l'abbiamo portata in tantissime scuole. È stata un'esperienza importante quella di aver fatto un workshop del fumetto, con la presenza di un insegnante, di un professore di fumetto della scuola del fumetto di Asti, ed avevamo fatto due giorni dove dei ragazzi che sono appassionati di fumetto hanno reinterpretato con il loro stile, con il loro modo, alcuni dei pannelli di quella mostra della storia d'Italia, del pioniere. Naturalmente chi è assolutamente interessato al discorso della memoria della resistenza oggi è l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e anche l'ANPI ha visto tra gli altri lo strumento fumetto come essenziale per riportare alla mente e nella verità delle cose quella grande insurrezione di Popolo Democratica. Quindi nella festa nazionale che è tenuta quest'estate a Carpi, l'ANPI ha presentato questa mostra Partigiani Fumetti 70 anni di resistenza sulle strisce disegnate, curata da Carlo Silvestri, che ci racconta un po' il perché di questa scelta. Abbiamo voluto raccogliere in un'opera che già esisteva, Per la libertà, un volume che raccoglieva tutti i numeri di fumetti sulla resistenza usciti dal 1945 al 2009. Con questa mostra, in occasione di questa mostra, abbiamo edito un volumetto che aggiorna questo volume dal 2010 al 2015. Cerchiamo anche con questa mostra di recuperare quel ruolo del fumetto nella narrativa. Si è sempre ritenuto il fumetto un parente povero della narrativa, invece noi ci siamo accorti già da tempo, ma vogliamo anche raccontare dell'importanza del fumetto nella narrativa italiana e specialmente sulla resistenza italiana. Non dimentichiamo che il fumetto e sulla resistenza nel nostro paese si sono cimentati autori di con un nome solo, Pratt, quindi estremamente importante. Da Carpi, dove si è tenuta la festa nazionale dell'ANPI, spostiamoci non troppo lontano a Vignola, terra natia di Roberto Baldassini, che è un autore di graphic novelist, illustratore, famoso peraltro per testi che sono sull'erotico sensuale, che però ha lavorato anche sui temi della memoria, con L'inverno di Diego, Le quattro stagioni della resistenza. Sentiamo dalle sue parole il perché di questo fascino. Questo è un progetto a fumetti che vuole ripercorrere il periodo della resistenza dopo il settembre del 43 fino alla liberazione. L'inverno di Diego racconta la prima parte, cioè dopo l'8 settembre i ragazzi che praticamente fuggono in montagna per evitare di essere arruolati, e quindi In questo primo libro racconto solo questa parte. Il progetto è quello di raccontare quattro episodi che ripercorrono la resistenza. È stato soprattutto un mio desiderio di lavorare sul mio territorio, cioè sulla provincia di Modena, dove abito, vivo e lavoro. E oltre a questo c'è il desiderio della memoria, che appartiene un po' ai miei genitori, ecco. Poi nello stesso tempo ho avuto la possibilità di conoscere personalmente un partigiano che si chiama Alfredo Cavazzuti, purtroppo è morto, era molto anziano, che mi ha introdotto e raccontato delle vicende che mi hanno permesso di ricostruire quel periodo. Senza di lui non ce l'avrei fatta. Che il fascino del bianco e nero appartiene al mio stile, ecco, e quindi trovandomi a raccontare una storia degli anni 40, il bianco e nero era l'immaginario che più preferivo. Thank you. E adesso possiamo anche svelare la scelta musicale che è legata alla musica klezmer, perché l'ultima parte della nostra trasmissione è legata a un magnifico fumetto, Maus, di Hart Spiegelman, che è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e incentrato sulla tragedia della Shoah, cioè lo sterminio degli ebrei, ed è un caso di memoria come che di memoria per ricordare gli orrori che può produrre la barbarie. Maus è un fumetto del tutto particolare, ultra premiato, ultra riconosciuto, da cui sentiamo la recensione da Nickname Viper su Nerd Channel per ambientarci in questo lavoro che veramente penso che vada sfogliato. Gli ebrei sono indubbiamente una razza, ma non sono umani. Con queste parole di Adolf Hitler inizia Maus di Hart Spiegelman. Il fumetto non è solo il mezzo per narrare le vicende degli eroi in calzamaglia, ma è anche un potente media in grado di toccare le corde del lettore ed emozionarlo profondamente. Questo è il caso di Maus, opera nata nel 1980 e terminata nel 1991, scritta e disegnata da Hart Spiegelman, il quale ci racconta i tragici fatti dell'olocausto degli ebrei avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Spiegelman imprime al suo lavoro un punto di vista molto particolare, fornendoci tutti gli eventi del racconto che appunto si accinge a narrare quasi in una cornice boccaccesca. Infatti Hart è un giovane fumettista newyorkese che ha deciso di raccontare la storia di suo padre, Vladek, prigioniero di un campo di sterminio, o meglio, del campo di sterminio più famoso al mondo, ovvero quello di Auschwitz. Fin dall'inizio Spiegelman imposta la sua narrazione su un climax ascendente, imprimendo forte emotività al racconto. Scopriamo però allo stesso tempo anche il rapporto che Hart intrattiene con suo padre, sopravvissuto al campo appunto di sterminio, malato nel momento in cui viene raccontata la storia, e però un irrimediabile scorbutico. Da qui si dipana lentamente sotto i nostri occhi il racconto di Spiegelman, il quale entra nel dettaglio nella vita dei campi di concentramento. Tramite il racconto di Hart però soprattutto entriamo in una società che progressivamente accetta delle idee a dir poco aberranti, fino quasi a giustificarle, mentre un intero popolo subisce le conseguenze della follia di un solo uomo in grado di plasmare le masse a suo piacimento. Entriamo così nei cancelli di Auschwitz e scopriamo la vita quotidiana di uomini e donne che spesso sentiamo nominare, ma che troppo facilmente dimentichiamo. Il racconto si apre con la storia dell'incontro tra Vladek e Anya, prima moglie appunto di Vladek, e si conclude proprio con i due che, dopo tutte le vicende della guerra e la relativa prigionia nel campo di Auschwitz, si incontrano nuovamente. Allo stesso tempo anche il racconto di Hart volge al termine e quindi i due filoni narrativi si concludono nello stesso momento. In questo modo però Spiegelman ci ha raccontato non solo dell'olocausto ma anche della propria vita e ci ha mostrato come un evento tragico come quello della morte della madre suicida nel 1968 possa essere comunque in un certo senso equiparato a una strage, a un avvenimento così tragico come quello della Shoah. Infatti Hart è insicuro e spaventato dal lavoro che si accinge a fare e non si sente all'altezza del compito che deve rivestire. Quindi possiamo dire che Maus è un manifesto all'umanità e che è anche un invito a utilizzare la propria forza di volontà per andare avanti nella vita. Quello che però ancora non ho sottolineato e la vera particolarità di questo fumetto, di questo libro a fumetti, è che Spiegelman decide di non utilizzare delle persone vere per il proprio racconto, ma opta per gli animali. Quindi abbiamo gli ebrei che diventano topi, i nazisti che diventano gatti, i francesi sono rane, i polacchi sono maiali e gli americani sono cani, appunto. Quindi anche se a prima vista può sembrare che Spiegelman voglia indorare la pillola e addolcire degli eventi così tragici, in realtà aprendo questo libro e avventurandoci all'interno delle sue pagine possiamo vedere che così non è, e anzi ci troviamo a leggere qualcosa di veramente toccante, forse uno dei racconti più toccanti che siano mai stati realizzati proprio sull'olocausto. Inoltre assistiamo anche al racconto di un uomo semplice che vive costantemente con le proprie paure e le proprie insicurezze, e quindi Spiegelman usa anche il racconto e la cornice di questo racconto per narrare eventi quotidiani che poi sono gli eventi anche della nostra vita. Ovviamente non sono mancati premi e riconoscimenti per questo capolavoro del fumetto mondiale, tra cui lo Special Prize del Pulitzer e un Eisner Award. Malgrado non poche siano state nel corso degli anni le polemiche, soprattutto della comunità ebraica, nel vedere un tema così importante e serio come quello dell'Olocausto affrontato in una maniera, secondo appunto la comunità ebraica e alcuni esponenti della comunità ebraica, in modo così leggero, appunto con una storia a fumetti. Thank you.